Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di un libro che accoppia la leggibilità del giallo con l'analisi di un periodo storico importante della storia d'Italia. Il libro praticamente è un giallo politico ambientato a Milano nell'ambito del Partito Comunista Italiano, un ambiente che l'autore conosce bene. L'autore infatti è Ludovico Festa, che del Partito Comunista fu un dirigente importante soprattutto a Milano. Poi Festa, che è un giornalista che ha contribuito anche a fondare Il Foglio, cambiò orientamento politico come è noto. Adesso scrive La Provvidenza Rossa, è pubblicato da Sellerio, 530 pagine, 15 euro. Il libro si svolge in 19 giorni, ciascuno dei quali dà il titolo a un capitolo, a partire dal 31 ottobre 1977, quando una militante comunista di via Procaccini, vicino alla vecchia sede del Sole 24 Ore, noto qua di passaggio, che è una fioraia, viene misteriosamente uccisa a colpi di mitra. E segue l'inchiesta, anzi le due inchieste parallele, quella del Partito Comunista e quella della Polizia, che appaiono quasi due mondi indipendenti che si osservano e si trattano a vicenda come entità separate, autonome, da trattare con reciproco rispetto, condito con una buona dose di sana diffidenza. Ma soprattutto nel libro colpisce la ricostruzione perfetta del mondo milanese degli anni 70, gli ultimi delle granitiche certezze ideologiche, ma anche quelle in cui maturano i germi del cambiamento, che di lì a poco trasformeranno radicalmente la società italiana e tutti i suoi punti di riferimento, a partire naturalmente dal vecchio Partito Comunista Italiano. E su questo sentiamo l'autore. Buonasera, Ludovico Festa. Buonasera. Ludovico Festa, questo suo libro è un giallo. Non parliamo naturalmente della trama perché non vogliamo rovinare la sorpresa ai lettori. Diciamo loro soltanto che si divertiranno a leggere il libro. Però è anche la ricostruzione di un ambiente, quello del Partito Comunista a Milano alla fine degli anni 70, che lei ha conosciuto bene, anzi che lei ha frequentato. Allora, la prima domanda è questa. Questo libro lei l'ha scritto un po' per nostalgia o più per prendere definitivamente le distanze da quell'ambiente? Le distanze da quell'ambiente non erano necessarie, perché è proprio finito, insomma, cioè la storia del movimento comunista finisce fra l'89 e il 91, insomma. I comunisti dopo il 91 sono come i bonapartisti dopo Waterloo, insomma è finita la ragione sociale, quindi il libro non è scritto né per nostalgia né per prendere distanze, è per far capire che cosa è successo, per far capire cosa è successo e per far riflettere su che cosa è successo, perché è successo naturalmente richiede delle cose più complicate di tipo storico, ma che cosa è successo, cioè che tipo di società era organizzata in quel modo lì, è bene che quelli che l'hanno vissuta ci riflettano e quelli che non l'hanno vissuta la conoscano. È un libro per capire innanzitutto. Ecco, fermiamoci al capire. Innanzitutto la domanda è questa: c'era una via milanese al comunismo italiano? C'erano alcune caratteristiche milanesi del comunismo italiano, una maggiore attenzione pragmatica, anche se era abbastanza diffusa in Emilia, però in Emilia diciamo, no? C'era una condizione ambientale molto più egemonica, come c'era una vera differenziazione anche nazionale, però il movimento comunista è un movimento internazionale, come in qualche passo del libro cito. Adesso ho letto una cosa fantastica che si chiama Party Animals di David Aranovic, che è un giornalista del Times, che aveva tutti i due genitori che erano due comunisti inglesi anni 50, eccetera. In questo partito minuscolo che era il Partito Comunista Inglese, lui, c'è questa sua autobiografia molto divertente, lui bambino a 6 anni dentro ambiente comunista, e ci sono interi passi, il tesseramento, gli inni, le bandiere, i viaggi in Bulgaria, certi costumi sessuali che sono identici a quelli che si trovano nel mio libro, perché appunto era un movimento internazionale. Infatti il suo libro parte da un delitto, ma parte anche dalla campagna per il tesseramento, che era una specie di lunga messa cantata del Partito Comunista. Sì, lì abbiamo polemizzato un po' con Gad Lerner, quando è stato così carino da presentare il mio libro, è stato molto affettuoso. Però diceva, però hai esagerato con questa cosa del tesseramento. Gli ho detto, tu non hai idea di che cosa fosse il tesseramento, forse anche un po' perché sei ebreo e non c'hai una religione universalistica ma una religione etnica. Il tesseramento per i comunisti era come il battesimo, il proselitismo, la conversione, cioè era questo inglese dice che era come il censo di Augusto, cioè era la ragione logica di un partito che voleva appunto fare proseliti, iscritti, avere sempre sott'occhio, e che aveva questo mito della testa del partito. Chiunque non è stato comunista ha un rapporto diverso con la testa del partito. La testa del partito era una cosa che ti dava una certa identità, insomma. Un aspetto sul quale lei insiste, che torna spesso nel libro, è l'utilizzo da parte dei comunisti di allora di quella che lei chiama la langue de bois, la lingua di legno, l'uso degli stereotipi linguistici. Quanto è ancora diffuso, secondo lei, questa abitudine? Che tic ha lasciato questa langue de bois nella sinistra italiana? Beh, sì, Gianni Baget Bozzo diceva che il problema della politica italiana è che il linguaggio è dettato dai comunisti, questo è stato vero a lungo, è rimasto. Naturalmente la langue de bois era una cosa che nasceva dentro il Comintern, dentro l'Internazionale Comunista, quella cosa lì è morta, quindi diciamo la radice della langue de bois si è sterilizzata. Però una ritrosia a usare le parole per descrivere la realtà c'è sempre. Non si parlava di terrorismo allora, ma di sedicente terrorismo. Oggi il terrorismo islamico lo si deve chiamare in tutti i modi. Quindi l'abitudine un po' a velare la realtà è rimasta. Sì, quello senza dubbio. Però diciamo, Lenin e Stalin sono una cosa diversa da Derrida e dalla... Le fonti del political correct degli anni 80 e 90, che mi pare che sia, diciamo, quello che produce la nuova langue de bois, insomma, cioè nasce più dalla destrutturazione dell'Occidente che dalla costruzione di un linguaggio autonomo da quello dominante, quindi segnato da degli stilemi di un movimento che appunto il classico di questa cosa è 1984 di Orwell, la neolingua, insomma, no? Questa grande costruzione che avviene insieme alla costruzione del movimento comunista. Quella sinistra milanese che lei frequentava e che qua descrive, il compagno Pessina, si sarebbero mai aspettati che Milano diventasse una città moderata e che per esempio un giovane neofascista, che nel libro si chiama Orazio Lo Bulgaro, diventasse ministro? Sì, guarda, i comunisti si aspettavano di tutto, cercavano di evitarlo, ma erano sostanzialmente abbastanza pessimisti, insomma, cioè, c'era quella cosa lì, diciamo, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà, si cercava di evitare delle cose che si può succedere di tutto, era un po' la logica, perché poi alla fine la logica è quello che per capire il comunismo bisogna capire che è un prodotto della guerra, insomma, della prima guerra mondiale e di quella che Nolte chiama la grande guerra civile europea, che alla fine finisce soltanto fra l'89 e il 91, e quindi è un movimento che ha una logica militare, nelle logiche militari c'è aspettarsi di tutto. La Milano che viene fuori da queste pagine è una Milano che cambia, ci sono per esempio i poliziotti che danno vita ai primi movimenti sindacali, eccetera. Ecco, il Partito Comunista di allora aveva capito che Milano cambiava, ma che non cambiava come avrebbe voluto lo stesso Partito Comunista? In parte sì, in parte no. Secondo me una cosa molto divertente nel giallo è questo racconto dell'operaio dell'Alfa Romeo che spiega: guardate, sta succedendo questa cosa qui, noi non abbiamo un'idea di come governarla, insomma, cioè c'è una trasformazione dell'industria, ci sarebbe un ruolo per il sindacato, ma se non mantenesse, diciamo così, le cose acquisite nel tipo di conflitto acquisito fra il 69 e il 77, e guardate che sta avvenendo questo, e c'è il funzionario che discute con l'altro funzionario che non ha idea di quello che sta del tutto succedendo. In parte così, se lei pensa, diciamo così, al piano regolatore del 1978-79, quello che fa un bravo persona come Rossinovich, eccetera, è tutto un piano regolatore pensato per l'espansione delle aree industriali nel momento, proprio un minuto prima di quando si stavano per chiudere alcune delle più importanti fabbriche milanesi. e dei piani regolatori si occupavano dei professionisti importanti, per esempio non soltanto urbanisti e architetti, ma anche avvocati, per esempio l'avvocato Farias, che in qualche modo dimostra la capacità di Togliatti di costruire un partito che teneva insieme gli operai, i massoni e i professionisti. Tenere insieme i massoni, no, avere relazioni con i massoni, con i cattolici, eccetera. C'era, nessun mondo doveva essere, come si dice, lasciato senza avere un rapporto. Bisogna dialogare un po' con tutti, questa era l'idea. Cioè costruire un partito comunista in un grande paese capitalistico avanzato richiedeva attenzione a tutto ciò che si muoveva e una capacità di interloquire oltre che di polemizzare, insomma, cioè. Secondo me è anche abbastanza divertente, per esempio, il dialogo col gesuita. Ci sono precedenti illustri. Sì, ci sono molti precedenti illustri. Qualcuno ha parlato di Manzoni, diciamo così, un po' esagerando. E poi c'è l'aspetto della famiglia. Bisognava essere ortodossi anche dal punto di vista della morale in quegli anni per i comunisti. Sì, anche questo, diciamo così, è una delle cifre del comunismo rivendicata poi anche apertamente da Togliatti, è l'ambiguità, cioè lui chiama di felice doppiezza, cioè bisogna vivere dentro questa società, dentro questa Costituzione, pensando a un'altra società diversa, eccetera. Vivendo dentro questa società i comunisti non possono separarsi dal loro popolo, punto di riferimento, che ha certi sentimenti, certi comportamenti, talvolta anche conservatori, eccetera. Poi possono anche però prefigurare una cosa diversa, una cosa un po' complicata, e poi appunto aveva un aspetto formale rigidamente osservato, per cui se creavi scandalo, diciamo, perdevi punti dentro il partito, era bene che fossi sposato, che avessi un figlio, eccetera, però poi era concesso una certa possibilità di rompere certe regole se non facevi scandalo. Oggi cosa questo voterebbe il compagno Pessina? Il compagno Pessina voterebbe indubbiamente PD, avrebbe votato PDS, avrebbe votato tutte le cose in cui si trasforma il Partito Comunista. Grazie a Lodovico Festa, autore della Provvidenza Rossa. Buona serata. Grazie a lei. Qualche anno prima invece è ambientata un'altra fosca storia milanese, questa autentica, raccontata da Andrea Kerbacher, si intitola La rimozione, storia di Giuseppe Tavecchio, vittima dimenticata degli anni di piombo, pubblicato da Marsilio, 126 pagine, 15 euro. Il sottotitolo spiega la vicenda. Giuseppe Tavecchio è un pensionato di 60 anni che fu ucciso l'11 marzo del 1972 in Piazza della Scala, vittima casuale degli scontri violentissimi che quel giorno si erano scatenati tra l'ala dell'ultrasinistra e la polizia. Per la verità, Tavecchio fu colpito da un lacrimogeno proprio dalla polizia, che in un momento di tregua era stato lanciato da una camionetta contro un gruppo di passanti, tra i quali c'era il malcapitato pensionato. Un gesto incomprensibile dagli effetti tragici rappresentati appunto dalla vittima, Tavecchio, di cui ormai tutti si sono dimenticati. E Kerbacher ne ricostruisce puntigliosamente la storia. La vita, va alla ricerca delle carte, scartabella negli archivi, intervista il figlio. E la vicenda, ci ricorda il libro, si concluderà con una prima condanna dei poliziotti coinvolti, una condanna che apparve tenue, ma che comunque sembrò importante perché sarebbe stata la prima contro appunto degli uomini della polizia per fatti attinenti alla loro gestione dell'ordine pubblico, ma qualche anno dopo la condanna verrà rovesciata proprio nel 1977, quando tutti saranno assolti e la memoria del povero Tavecchio sarà precipitata nel buio dell'amnesia collettiva. E a questo punto sospendiamo per un attimo, ci sentiamo tra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un libro di drammatica attualità, perché parla di un fenomeno con il quale dovremmo fare temo a lungo i conti. Il libro è quello di Renzo Guolo, che è uno studioso di sociologia dell'Islam a Padova, e ha scritto L'ultima utopia, gli jihadisti europei, è pubblicato da Guerini Associati, 176 pagine, 14,50 €. Come sappiamo, tanti giovani europei, in particolare dal Belgio, hanno deciso di combattere coi terroristi islamici, e questo libro ne esplora il fenomeno cercando di rispondere ad alcune domande. Ve le presento, sono quelle dell'autore: chi sono e cosa li spinge a compiere una simile scelta? Cosa li ha indotti ad aderire all'Islam radicale e a prendere le armi, non solo per affermare un progetto politico e religioso, ma anche come segno di rottura con la cultura del mondo in cui sono nati o sono stati socializzati? Perché decidono di mettere in discussione e a rischio la loro vita ed infliggere la morte agli altri? Queste le domande di Guolo. Fra di loro, spiega l'autore, c'è di tutto, e quindi lo sforzo del libro è quello di cercare di capire le ragioni che spingono tanti giovani europei a questa scelta. Da buon sociologo, Guolo cerca di capire le motivazioni, senza giustificarle naturalmente, ma con lo sforzo di cogliere i processi sociali, psicologici, mentali che inducono a scelte radicali che appaiono addirittura incomprensibili. E naturalmente ci sono anche i giovani italiani. Ricorda infatti Guolo che i foreign fighters vissuti o nati in Italia, collegati alle filiere del jihad in Siria e in Iraq, sarebbero al settembre 2015 81, 5 di nazionalità italiana, 5 hanno doppia nazionalità, 18 sono quelli caduti in combattimento, e alcuni di questi italiani ci vengono anche presentati a fondo. La conclusione dello studioso non è confortante, infatti egli scrive al termine del suo libro che il ciclo politico del radicalismo islamista e jihadista, iniziato alla fine degli anni 70 del secolo scorso, potrebbe rivelarsi lungo anche in Europa, dove le condizioni politiche, economiche e culturali che hanno indotto migliaia di giovani ad aderire a quel movimento persisteranno a lungo, in assenza di mutamenti politici e culturali che incidano sulle cause che hanno generato una simile militanza. Il modello di democrazia liberale contro il quale lottano gli islamisti radicali è sotto attacco, e quindi lo vogliamo difendere leggendo anche alcuni libri. Per esempio quello di uno studioso italiano, Corrado Ocone, che ha scritto Il liberalismo nel Novecento, da Croce a Berlin, è pubblicato da Rubbettino, 270 pagine, 18 euro. Il libro ci presenta 5 protagonisti del pensiero liberale del Novecento: Benedetto Croce, il cui pensiero viene approfondito in un'apposita sezione, Michael Oakeshott, che è un filosofo inglese, poi Karl Popper, August von Hayek e Isaiah Berlin. Conclude nel libro alcune riflessioni sul rapporto tra liberalismo e socialismo e sulla valutazione da parte liberale del fenomeno del cristianesimo, che un tema che viene affrontato attraverso l'esame di un altro studioso straniero, un altro filosofo inglese, Robin Collingwood, che fu amico e traduttore di Benedetto Croce. E nei 5 pensatori di cui approfondisce il percorso, Ocone riconosce 2 tratti comuni che così riassume: 1. La critica al razionalismo astratto, allo scientismo, al positivismo; 2. La messa in scacco di ogni pretesa di filosofia della storia, di storicismo olistico, di costruttivismo ingegneristico, insomma, aggiungo io, dell'ideale di voler cambiare a tutti i costi il mondo secondo i nostri disegni. Ed è interessante, aggiunge Ocone, notare che a questo esito i 5 filosofi giungono partendo da presupposti che spesso sono integralmente diversi. Proprio a Isaiah Berlin, uno dei 5, è dedicato il libro di uno studioso italiano che non è un filosofo o uno scienziato della politica, ma un grande archeologo, Andrea Carandini, che ha pubblicato sempre con Rubbettini Paesaggio di idee, 3 anni con Isaiah Berlin, 382 pagine, 19 euro. Questo libro è una sorta di cronaca della scoperta, della riscoperta di questo grandissimo protagonista del pensiero politico del Novecento, Isaiah Berlin, vissuto tra il 1909 e il 1996. Carandini, giunto età maturo, si guarda intorno, si scopre insicuro, le sue giovanili convinzioni marxiste sono crollate, deve fare i conti con una società, quella italiana, piena di uomini storti, come dice Carandini riprendendo una famosa definizione di Kant, storti in Italia o perché perpetuano vizi antichi come il particolarismo, oppure perché vogliono raddrizzare a tutti i costi le storture degli altri non guardando le proprie. E poi fortunatamente ci sono i curiosi, curiosi. Secondo Carandini, curiosi sono quelli che si ritengono incompleti, creano ponti, si aprono all'inaspettato, esplorano alternative, amano mettersi nei panni altrui, cercano il bene dove lo trovano, nelle tradizioni locali come nelle culture lontane, sono innovatori. Il problema dell'Italia, aggiunge Carandini, sta nel fatto che gli storti curiosi sono troppo pochi per bilanciare gli altri due generi di storti. E per queste persone, naturalmente, Berlin, con il suo modello di società decente, può essere un'autentica guida. Sentiamo da Carandini perché. Berlin è stato un illuminista di un genere speciale. Era più legato alla cultura evoluzionista dei liberali britannici, presso di noi malnota, che a quella razionalista costruttivista dei filosofi e dei rivoluzionari francesi, a noi ben nota. A Berlin, Francia e francesi erano poco congeniali. Eppure, d'accordo con l'insieme dei diversi illuminismi, Berlin ha ritenuto che tutte le culture conoscono le nozioni di bene e male, di vero e falso, di coraggio e vigliaccheria, per cui esistono alcuni valori universali, nel senso di comuni alla grande maggioranza degli uomini, dei tempi e dei luoghi. Ragione, valori universali e senso di appartenenza all'umanità sono per lui idee globalmente condivise, per cui possono essere ritenute presupposti della stessa condizione umana. Infatti sono i valori universali a consentire alle culture, sempre diverse eppure mai tra loro del tutto separate, di comunicare e comprendersi. Un pensiero già di Vico. A suo avviso, tutto comprendere non implicava tutto condividere e perdonare. Infatti, ogni sistema umano fa riferimento a un orizzonte di bisogni e di scopi generalmente comune, a pochi standard valutativi ultimi condivisi da tutte le culture. Esiste pertanto una natura umana senza la quale la nozione stessa di essere umano non sarebbe comprensibile. Infine, Berlin ha notato che se tutte le culture riconoscono gli stessi crimini, individuano più difficilmente le medesime virtù. Berlin non ha creduto nella ragione come occhio magico inalterabile e perfetto, capace di cogliere verità non empiriche, quindi universali e assolute. La ragione non era per lui infallibile nello scoprire i fini. Ciò lo ha portato a negare che si potessero redigere liste di diritti naturali definite a priori. L'ultimo titolo di Berlin pubblicato in Italia è Un messaggio al XXI secolo, pubblicato da Adelphi, 60 pagine, 7 euro, tradotto da Giulio Arboremella e Gilberto Forti. Questo libricino raccoglie due discorsi di Berlin, il primo intitolato La ricerca dell'ideale del 1988 e il secondo, che dà appunto il titolo alla raccolta, che è stato pubblicato postumo nel 2014 ed è un breve credo, così lo definiscono i curatori di Berlin, predisposto per il conferimento della laurea honoris causa a Toronto nel 1994. E qui in questo testo Berlin ribadisce che gli orrori dei quali il Novecento è stato testimone e protagonista non furono causati dai sentimenti umani, che egli così descrive, la paura, l'avidità, gli odi tribali, l'invidia, l'amore per il potere, bensì dalle idee, o meglio, da una specifica idea. E quale sarebbe questa idea che provoca tanti orrori? Spiega Berlin. La convinzione che gli interrogativi basilari della vita umana, individuale o sociale, hanno un'unica valida risposta che può essere scoperta. Questa risposta può, anzi, deve essere applicata, e coloro che l'hanno scoperta sono i leader la cui parola è legge, una visione alla quale Berlin naturalmente si è opposto per tutta la vita. E a questo punto... Il confettino. Confettino senza titoli per ricordare che domani apre a Bologna la Fiera del Libro per Ragazzi, che è giunta alla 53esima edizione. L'appuntamento è riservato agli operatori, ma ci sono, come sapete ormai, tantissimi eventi in fiera e in città per tutti gli appassionati di libri e di libri per bambini. Questo è un appuntamento di importanza mondiale e con alcune novità. Per esempio un padiglione viene dedicato al Bologna Digital Media per aprire al settore del digitale. E poi ci sono gli appuntamenti più tradizionali come le mostre sulle illustrazioni e per la prima volta il premio Strega per le ragazze e i ragazzi. A Bologna quest'anno si troveranno 1200 espositori in 98 paesi e saranno organizzate 9 mostre speciali. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona serata.